già che ostinato oscurar d'onore il peggio, e muori trapassami col ferro, e poi crudele di questo sei fedele, di cui non curi il tormentoso affanno, renditi pure. Dio, tu non più desio l'empia voglia satiar chi ti tormenta. Barbaro, su, che fai? Prendi lo strale e questo sei la venta. Vincesti, ah sì, vincesti, ora ti chiedo pietà all'error grave. Penar fu sempre acceso, già si ti bomba spetta giusto risentimento a mal d'offesa. Ecco, giunge opportuno Silvano il mio buon padre. Or sappi, amico, semplicetto pastore,